L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati. Sono ore, lunghe ore, passate solo ad aspettare che qualcuno sappia dire qualcosa che faccia sperare che questa maledetta storia sia sul punto di finire. E insieme finalmente noi domani torneremo a uscire, a incontrarci per le strade come un tempo in un locale, con un sogno, una birra in mano e una strana gioia qui nel cuore che è difficile da capire perché sembra sia normale, ma da questi giorni qui tutto sarà un po' speciale. Un mondo sottosopra, difficile capire in questi giorni davvero cosa ruoti attorno alla nostra piccola economia. Ma noi siamo sempre qua, buon sabato da Anna Migliorati. Mai davvero avremmo pensato di raccontare con voi un'Italia e un'economia che davvero ci cambia. Allora, questa settimana un appuntamento davvero un po' speciale. E saluto e ringrazio allora innanzitutto, benvenuto a Domenico De Masi, professore emerito di Sociologia dell'Economia e del Lavoro all'Università La Sapienza di Roma. Grazie a lei. Come ci sta cambiando questa situazione? In qualche modo sta tirando fuori, possiamo dire, una sociologia dell'economia molto diversa da quella che abbiamo conosciuto fino a poche settimane fa? Significa che riusciamo a distinguere bene i momenti eccezionali da quelli normali. È vero che un buon funzionamento si deve vedere soprattutto nei momenti normali, ma nei momenti eccezionali è importante fare di tutto per superarli. Praticamente noi stiamo attraversando come una sorta di grande corso di formazione accelerato, e però mi pare che stiamo imparando parecchie cose. Quali per esempio? Per esempio stiamo imparando che le competenze servono, si dava molto meno importanza alla scienza, e invece ora ci si è accorti che dobbiamo appellarci soprattutto a loro. Ci si è accorti che anche nei media è più importante la competenza che l'incompetenza, per cui radio e televisione stanno vincendo, a mio avviso, sui social network. Finalmente diamo molta più importanza a fonti più autorevoli che non a fonti molto più fugaci. Possiamo dire anche dal punto di vista economico, forse stiamo imparando cosa ci serve davvero e cosa no. Naturalmente faremo una scelta molto più oculata, quindi meno consumista, ma soprattutto stiamo imparando per esempio a telelavorare. Questa è una rivoluzione enorme. Stiamo imparando che serve il welfare, siamo fortunati ad avere una sanità in cui tutti possono essere curati. Se fossimo negli Stati Uniti in questo momento, almeno il 30% delle persone avrebbe paura di non potersi far curare perché senza assicurazioni. Stiamo imparando che anche le scienze esatte a volte possono sbagliare, perché quando ci si trova di fronte a fatti completamente nuovi siamo tutti guarniti. Stiamo imparando che è difficile prendere le decisioni, che bisogna farlo in gruppo, che questo gruppo deve essere molto affiatato. Stiamo imparando che bisogna obbedire alle decisioni del governo, non si può stare a discutere continuamente. Possiamo dire che è un qualche modo, per necessità ovviamente e non per volontà, un grande esperimento sociale ed economico dal quale molto probabilmente, se vogliamo vederla con un po' di ottimismo, ne usciremo come migliori tutti quanti. Un grande corso di formazione, sì, un grande esperimento. Naturalmente bisogna tenere conto che alcuni non ne usciranno, e quindi bisogna tenere presente questo, che il morbo fa anche i suoi morti purtroppo, ma quello che sarà superstite di sicuro lo sarà in modo migliore, a mio avviso. Grazie, naturalmente ci auguriamo che tutto questo finisca il più presto, finisca al meglio, però alla fine qualcosa avremo imparato, e avremo imparato che non tutti i mali vengono completamente per nuocere. Nuociono di sicuro, ma non del tutto. Grazie allora per essere stato con noi. Grazie a lei. Facciamo finta che là fuori piove e che quel sole tarda ad arrivare, ma è solo tempo da rispettare. Allora, da casa, quali sono le vostre abitudini che sono cambiate? Qual è la vostra economia delle piccole cose? Scriveteci sulla pagina radio24.it dedicata all'economia delle piccole cose, oppure direttamente alla mail economia delle piccole cose, tutto attaccato, @radio24.it. Vorrei raccontare anche la vostra piccola economia di questi giorni. Piccole cose crescono. Intanto ringrazio e saluto per raccontarci come siamo cambiati a fare la spesa Marco Colombo di IRI, società di ricerche di analisi di mercato. Benvenuto. Buongiorno. Uno dei punti essenziali che resta aperto in questi giorni è la distribuzione del cibo, come giusto che sia, ma anche quella in qualche modo è cambiata per prudenza, è cambiata per una situazione che ovviamente è diversa. Allora, ci racconta come abbiamo fatto la spesa in questi giorni? Possiamo vedere tre grandi momenti. Un primo momento dettato dal panico. Nelle regioni in cui è stata per la prima volta aperta l'emergenza coronavirus, di 2-23 febbraio, è stato evidente un picco forte di vendita, più del 90% di incremento sull'anno prima. Quindi non era solo un effetto ottico gli scaffali vuoti, c'è stato effettivamente il picco di vendita. Esatto. La settimana poi si è tranquillizzata, fino ad arrivare al weekend successivo in cui le misure restrittive si sono rafforzate. Altro picco di vendita, forte senso di disagio da parte dei consumatori che cominciano a recarsi nei punti vendita non solo della zona rossa ma anche in tutta la Lombardia e in tutte le altre province, e comincia anche il centro e il sud. Ad oggi come siamo? Vediamo degli incrementi complessivi che vanno su una doppia cifra, siamo a una crescita di oltre il 40% rispetto alle tre settimane dell'anno scorso. Quindi per spiegarci, stiamo comprando il 40% in più di quello che compravamo l'anno scorso come cibo. Esattamente, come cibo e come prodotti per la cura della persona e parafarmaceutici. Quindi stiamo facendo scorte? Stiamo facendo scorte. Stiamo comprando tonno, carne in scatola, più 76% la carne, più 30% il tonno, più 25% la pasta, verdure in scatola, più 30%, pomodoro, più 45%. Quindi ci stiamo preparando per un momento in cui non ci saranno più prodotti sul punto vendita. Cosa che, ripetiamo, non accadrà perché i punti vendita restano aperti, ma questo è quello che sta realmente accadendo. Poi ci sono altri due fenomeni, che sono le vendite online e il cosiddetto click and collect. Cosa sono e qui cosa sta succedendo? In alcune zone d'Italia il commercio online, quindi ordinare il prodotto e farselo portare a casa, è stata la prima azione che molti consumatori hanno adottato. Infatti la crescita in queste settimane è addirittura aumentato dell'80%. L'eccesso di ordine ha fatto sì che la possibilità di consegnare il prodotto a casa sparisse. E quindi che cosa succede? Il consumatore non si ferma, adotta un'altra opzione, va a ritirare il proprio prodotto direttamente nel supermercato di fiducia. E questo è il click and collect, cioè ordino e ritiro io, ma sto meno tempo nel punto vendita. Esattamente, infatti si è addirittura assestato a un più 200% rispetto all'anno scorso. È un fenomeno che molti non avevano considerato. La comodità e il servizio del farsi recapitare la merce a casa era quello che tutti fino al 20 di febbraio apprezzavamo dell'online. Ci siamo resi conto invece che esiste anche un altro modo. Online si possono anche comprare i farmaci, ad esempio. A questo abbiamo dedicato una puntata di Economia delle Piccole Cose, naturalmente TV, libri, ma anche, perché no, visitare un museo. Allora andiamo a Milano, al Museo della Scienza Leonardo da Vinci, si chiama Storia a porte chiuse, ma in realtà le porte le apre da casa. Buongiorno, Paolo Cavallotti, responsabile Digital Museo Nazionale Scienza e Tecnologia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Cos'è? Cosa possiamo fare da casa? Beh, da casa si può entrare nel museo. Può sembrare paradossale, ma è quello che stiamo cercando di fare in questi giorni di triste chiusura forzata, perché il museo ha tantissime storie, tante esperienze da portare e può portare anche fuori. Tutti i colleghi di tutti i settori stiamo cercando di costruire proprio tante storie che escano. Ci guida in questa possibilità? Se io sono a casa, non posso andare a visitare il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, ma ho un computer, cosa posso fare? Beh, è abbastanza facile, ci si collega alla nostra pagina Facebook o al nostro canale Instagram e lì si segue, diciamo, l'hashtag Storie a Porte Chiuse, ma diciamo che sul canale poi si trova tutto. E ogni giorno stiamo cercando di costruire un po' un palinsesto tematico, ogni giorno su un tema o un aspetto diverso della vita del museo, dei contenuti del museo, delle storie del museo, quelle che possono essere magari delle piccole esperienze digitali di aggirarsi dentro il museo. Quindi io posso ad esempio girare e vedere le stanze del museo dal mio computer senza uscire di casa? Sì, in alcune cose sì, oppure sentire le voci delle persone che dentro il museo ci lavorano, che raccontano dietro le quinte, oppure dei documenti inediti che escono dai nostri archivi, oppure scoprire che cosa sono i depositi di un museo, oppure una curatrice che racconta la nascita della Mucchina dal nostro museo. La nascita della Mucchina ci interessa parecchio, ma paradossalmente anche di più di quello che io potrei venire vedendo veramente lì, il dietro le quinte. Ecco sì, questo è un taglio interessante, nel senso che se da un lato purtroppo stiamo perdendo tutta la bellezza e la ricchezza unica e insostituibile di una visita fisica al museo, abbiamo comunque l'opportunità almeno di valorizzare quegli aspetti un po' più nascosti che una visita al museo non mette in mostra, e quindi vedere proprio dietro le quinte come nasce, come si crea un'attività educativa dentro un nostro laboratorio, oppure come viene fatto un restauro oppure la manutenzione di un oggetto storico. Queste sono cose che ad esempio in una visita fisica non si possono vedere e che questo è il momento buono per poter raccontare a tutti. E poi magari quando tutto questo sarà finito la curiosità di venirci davvero. Vabbè, quello non deve mancare mai. Grazie allora per essere stato con noi. Grazie mille a voi. Questa è la nostra economia delle piccole cose. Rinnovo l'invito: qual è la vostra economia delle piccole cose? Scriveteci sulla pagina di Radio 24 dedicata all'economia delle piccole cose, oppure direttamente alla mail economiadellepiccolecose@radio24.it. Vorrei raccontare anche la vostra in questi giorni. Noi restiamo qui. Un saluto intanto da Anna Migliorati. Alla prossima settimana.